La legge che viene proposta adesso per la raccolta delle firme come legge di iniziativa popolare in realtà ripropone lo stesso testo che fu varato dalla Commissione Rodotà ancora nel periodo in cui si fece il referendum popolare sull'acqua per contrastare la tendenza verso la privatizzazione di beni che sono beni fondamentali collegati con diritti propri di ciascuna persona e quindi che non si ritiene che possano essere oggetto appunto di privatizzazione. E quindi la legge a suo tempo venne portata in Parlamento ma non venne mai discussa e da qui è nato il Comitato Popolare che ha rilanciato questa proposta vista l'importanza che hanno assunto i beni comuni e anche la maggiore consapevolezza diffusa su che cosa siano i beni comuni. La legge li definisce nel modo che ho appena sintetizzato, cioè sono beni comuni quelli che sono collegati a un diritto fondamentale della persona e appunto allo sviluppo stesso della persona, quindi con un richiamo all'articolo 3 della seconda parte della nostra Costituzione. Quindi non c'è una definizione stringente, anche perché in questo modo può essere più ampia la categoria dei beni comuni che poi dovranno essere definiti in maniera più precisa dai decreti attuativi. La proposta di legge che noi stiamo, per cui adesso stiamo raccogliendo le firme, è una proposta di legge delega, quindi fissa dei principi, non definisce in dettaglio le regole. Ci sono però una serie di beni che vengono elencati dalla legge e sono soprattutto quelli collegati con l'ambiente, quindi l'aria, l'acqua, le spiagge, i litorali, i fiumi, con la tutela delle esigenze paesaggistiche e quindi luoghi particolarmente belli e importanti per il territorio e ancora con riferimento ai beni artistici e culturali. E alcuni di questi sono definiti come beni ad appartenenza pubblica necessaria, quindi non possono essere venduti, per esempio, nessuno può usucapirne mai il diritto, quindi per esempio le spiagge, le rade, le reti stradali, le autostrade, le ferrovie, le frequenze, anche questo è un elemento molto importante, gli acquedotti, i porti, gli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale. Ecco, in questo caso si tratta di beni che non possono essere neanche venduti, quindi devono essere proprio oggetto di una proprietà pubblica. In altri casi invece possono anche essere oggetto di proprietà privata, purché però anche in questo caso, con riferimento alla nostra Costituzione, sia garantita la fruizione collettiva e la destinazione appunto ad un uso pubblico. Per entrare nel merito della vostra proposta di legge popolare, che cosa appunto prevederebbe? Allora, prevede appunto in alcuni casi, come dicevo, il fatto che non possano essere altro che di proprietà pubblica. In altri casi prevede che ci sia anche una proprietà privata purché effettuata secondo criteri di gestione trasparente, questo anche per la gestione pubblica, perché non basta dire che un bene è di gestione pubblica per assicurarne una tutela effettiva. Quindi anche gli enti pubblici sono poi vincolati a criteri di trasparenza e di destinazione d'uso. Poi per i beni che eventualmente fossero di proprietà privata, come dicevo, ci deve essere la garanzia che la destinazione sia comunque una destinazione che permette anche la fruizione collettiva. Ci sono anche beni che sono beni sociali, questa è una delle innovazioni più importanti perché l'elaborazione in materia di beni comuni era più legata appunto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Nella proposta di legge invece si introduce anche la categoria di beni comuni sociali che corrisponde alla soddisfazione di diritti civili e sociali della persona, per cui ci sono le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali oppure alle scuole, agli asili, le reti locali di pubblico servizio. Ecco, anche in questi casi ci può essere per esempio una collaborazione fra pubblico e privato e ci sono anche già esperienze per la verità di regolamentazione che vanno in questa direzione. Pensiamo anche alla nostra realtà. A Bologna ci sono per esempio gli orti comunali che sono gestiti da associazioni private. parte. Noi abbiamo fatto una raccolta di firme presso la cooperativa Arvaia, che è proprio un esempio di questo tipo. Ecco, allora anche in questi casi si prevede una salvaguardia sia appunto nella destinazione e nel modo di usare questi beni comuni, ma si prevede ancora di più, e cioè il diritto dei soggetti che li gestiscono di poter poi anche difendere eventualmente in giudizio il proprio diritto appunto a intervenire laddove ci sia un cambiamento nella destinazione dell'uso del bene comune. È una legge che fondamentalmente si propone di contrastare le privatizzazioni selvagge, quindi di mantenere appunto la garanzia che questi beni comuni possano essere fruiti dalla collettività e che la collettività abbia voce in capitolo nella loro gestione. È una cosa importante perché proprio in questi giorni si sta discutendo un provvedimento che dovrebbe cambiare la natura demaniale pubblica di alcuni beni per consentire agli enti locali, ai comuni, una strada più facile per arrivare per esempio anche a una loro vendita, per ragioni di profitto, e questo dimostra l'importanza invece di avere una legge che fissi dei principi molto più certi, garantistici e che appunto contrastino queste tendenze. Che fare per chi voglia partecipare alla raccolta firme? La raccolta firme è già iniziata da alcuni mesi, quindi siamo adesso un po' nella direttura finale. La scadenza è praticamente alla fine di questo mese, il 30 luglio, quindi chi vuole può andare, ed è residente a Bologna, può recarsi a sottoscrivere i moduli che noi abbiamo lasciato come Comitato Rodotà qui di Bologna e abbiamo lasciati presso l'ufficio relazioni col pubblico del Comune di Bologna, l'URP, in Piazza Maggiore numero 6 di fianco alla farmacia comunale. Un'altra raccolta firme si farà domenica prossima in Piazza Carducci insieme all'associazione Slow Food, che è sostenitrice di questo nostro progetto insieme appunto ad altre associazioni, e quindi saremo in Piazza Carducci dalle 9 alle 13 di domenica mattina. Altri eventi si faranno probabilmente la prossima settimana e saranno tutti indicati nel sito Facebook Comitato Legge Rodotà Bologna. D'accordo, io ti ringrazio molto, ti auguro buon lavoro. Grazie a voi e a tutti quelli che sosterranno questa iniziativa, perché bisogna arrivare alle 50.000 firme perché possa appunto diventare una legge di iniziativa popolare che dovrebbe essere obbligatoriamente discussa in Senato secondo il nuovo regolamento del Senato, e certo, poi naturalmente si creeranno anche reti di sostegno per avvalorare e anche riempire di maggiori contenuti la proposta stessa.